tempo è fugace, accolgo il tuo abbandono, mi dono intero. I corpi seguono un dolce sentiero nell'abbraccio che ci regala la pace. La tua stanchezza è la mia e ciò che tace, l'odore del sudore, il segno vero dell'amore in un giaciglio leggero di seta, nel talamo che quieto giace. È l'alba e la luce nel cielo si scala, il tuo corpo così puro, tenero e blando si stringe al mio che in silenzio gli parla. Che questo stato sereno come un fiume ci porti il giorno, ci dia il comando delle aurore di vita nel chiaro lume. In un luogo dove il tempo è fugace, accolgo il tuo abbandono, mi dono intero. I corpi seguono un dolce sentiero nell'abbraccio che ci regala la pace. La tua stanchezza è la mia e ciò che tace, l'odore del sudore è il segno vero dell'amore in un giaciglio leggero di seta, nel talamo che quieto giace. Così puro, tenero e blando si stringe al mio che in silenzio gli parla. Che questo stato sei